Aspettando con costanza che arrivi Meazza, la Rossani presenta Due di Denari. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. I want to ride my E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Due di Denari. No, oggi non rifacciamo la puntata sul bonus mobilità, però volevamo rifare un punto della situazione dopo la giornata molto difficile vissuta ieri da tutti coloro che avevano fatto l'acquisto nei mesi passati e che ieri erano pronti a innestare, a inserire le proprie credenziali sul sito appositamente allestito dal Ministero dell'Ambiente, il bonus mobilità, sito bonus mobilità per l'appunto, per ottenere lo sconto rispetto all'acquisto, il 60% appunto del valore del mezzo acquistato, come ricorderete, per un massimo di circa 350 euro. Sapete che ieri il sito è andato in tilt, lo abbiamo raccontato in diretta con il nostro collega del Sole 24 Ore, Pierangelo Soldavini, che anche lui era intenzionato appunto a fare la richiesta delle bonus. È andato in particolar modo in tilt il sistema che richiede l'identità digitale necessaria appunto per registrarsi, se fatta con Poste Italiane. E praticamente il 90% degli utenti che ieri hanno fatto richiesta del bonus avevano proprio l'identità digitale attivata con le Poste. Non è funzionata e questo ha obbligato appunto per molti utenti a mettersi in coda prima di poter fare la domanda. Alle 10 di questa mattina però sul sito www.buonamobilità.it c'è una scritta che annuncia che è esaurita la dotazione di 215 milioni di risorse del programma sperimentale Buono Mobilità per il 2020. Ieri sera lo abbiamo potuto ascoltare anche a Focus Economia nel corso dei giornali radio, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi, anche il ministro dell'Ambiente Costa ha invitato a entrare nel sistema anche con calma, anche nei prossimi giorni, perché sono stati predisposti altri fondi ad hoc in legge di stabilità e il ministro ha assicurato che tutti coloro che hanno fattura o scontrino parlante al 2 novembre e ieri non si sono potuti accreditare, appunto, saranno comunque rimborsati. Peraltro, proprio stamattina stanno continuando a scriverci tanti ascoltatori che hanno riscontrato ieri appunto la criticità nel accreditarsi al sito del Ministero dell'Ambiente. Roberto questa mattina ci ha scritto che ieri non ha potuto farlo proprio per la questione sollevata con lo speed delle Poste Italiane. Stamattina ha compilato nuovamente la pratica, i fondi stavano esaurendosi, preso dalla fretta, ha sbagliato ad inserire la partita IVA del venditore, ha provato a cercare di correggerla, ma ormai avevo inviato la pratica e non mi dava l'occasione per poterla rifare. Lui dice: spero che con questo cavillo, a causa di questo cavillo, non rifiutino la mia domanda. Roberto, io non sono molto convinta che la sua pratica possa andare a buon fine, però magari proveremo anche a documentarci su questo. Se lei non può rifare la domanda e inserire chiaramente i dati corretti, sarà difficile che le possano accreditare questo importo. Non lo sappiamo, però insomma la domanda che ci è arrivata proprio questa mattina, e quindi avremo modo adesso di documentarci al meglio. È mercoledì intanto, e come sapete il mercoledì noi parliamo di lavoro e lo facciamo con un'istituzione molto importante che è l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, un ente pubblico di ricerca che oggi ci racconta una cosa molto interessante. Oggi parleremo ancora una volta di giovani, lo abbiamo fatto anche la settimana scorsa, lo rifaremo oggi, parleremo di stage all'estero. Un'esperienza che purtroppo molti ragazzi hanno dovuto rinunciare in questi mesi e forse hanno anche dovuto rinunciare, o almeno devono rinunciare in questo momento, a fare un progetto in questo senso, perché non sappiamo bene se e come ci si potrà spostare in giro per il mondo da qui ai prossimi mesi. Però è comunque sempre un buon momento per pensarci, se si ha la possibilità appunto di farlo, e noi vi racconteremo di un'applicazione che INAP ha predisposto per poter avere un quadro molto dettagliato rispetto a tutte le possibilità che ci sono in giro appunto nel mondo, e quindi in Europa, nel resto del pianeta, dove si può andare, quali tipo di esperienze si possono fare, quali tipo di esperienze lavorative di questo genere. E soprattutto noi vorremmo anche coinvolgervi di nuovo questa mattina, chiedendoci se effettivamente era un progetto che in famiglia si stava accadendo accarezzando e al quale si è dovuto naturalmente rinunciare a causa della pandemia. Però prima o poi torneremo a vivere una condizione di normalità, magari per molti è un progetto solo rimandato o forse solo un po' complicato, perché non è detto che non ci si possa spostare, sicuramente ci sono dei requisiti di sicurezza più forti da rispettare rispetto a qualche mese fa. 800 24 00 24, il numero verde che vi consente di intervenire in diretta, ma anche nella prima parte del programma abbiamo tantissime cose da raccontarvi e quindi io direi di partire con le notizie in breve. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Allora, intanto un ascoltatore ci sta scrivendo che a mezzanotte è riuscito ieri sera con Speed Poste Italiane a ad accreditarsi sul sito Bonus Mobilità, appunto, per ottenere il voucher, il bonus per l'acquisto delle sue due nuove ruote. Quattro tentativi ieri, alla fine a mezzanotte ci è riuscito. Bene, ci fa piacere. Allora, quasi tutte i programmi di informazione in queste ore, sia Radio 24 che in tutti i telegiornali, come avete visto, sono abbastanza concentrati a raccontarci quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove l'esito elettorale è estremamente incerto. Forse ce lo potevamo anche immaginare, ma in realtà la situazione è quella peggiore, quella che si sta materializzando in queste ore, cioè quella di un esito elettorale che Trump contesterà in ogni modo. Questo stamattina pensavamo peraltro che disturbasse molto il mercato, invece ancora una volta il mercato azionario ci sorprende, perché in Europa le cose stanno andando bene, ma questo ve lo racconto alle 11.30. Sono partita dalle elezioni americane perché oggi negli Stati Uniti ci arrivano i racconti dagli Stati Uniti, appunto, anche di un altro voto che è stato espresso in California. Allora, Uber e la rivale Lyft vincono un importante referendum in California perché i loro autisti potranno continuare ad essere considerati dei liberi professionisti che prestano la loro opera all'azienda e non dei dipendenti veri e propri. È un referendum che si chiama Proposition 22, e a questo referendum è stata approvata la misura che esenta le società della cosiddetta gig economy, l'economia a prestazione, dall'applicare la legge statale per i loro lavoratori. Gli elettori della California hanno votato per non eliminare il lavoro indipendente, ma per renderlo migliore. A proposito di questo tema, è molto, come sapete, caldo il dibattito anche in Italia, perché proprio da ieri è valido l'accordo siglato lo scorso 15 settembre fra Assodelivery, l'associazione italiana che riunisce le principali aziende del settore, e il sindacato UGL, peraltro un accordo molto contestato proprio perché siglato con un'unica sigla sindacale, e quindi gli altri sindacati e anche gran parte del mondo dei cosiddetti fattorini hanno definito questo accordo pirata, fortemente peggiorativo per una categoria già molto precaria. Ieri a Milano si è svolta una manifestazione non autorizzata, purtroppo, dei riders, che hanno anche bloccato il traffico e sono preoccupati un po' perché con il nuovo lockdown i rider torneranno ad essere davvero essenziali, e però dicono: non vogliamo essere chiamati eroi solo per avere i diritti che ci aspettano. Sui rider scrive oggi Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, spesso ospite delle nostre trasmissioni, che spiega ai lettori la circolare 7 di quest'anno dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che contiene delle indicazioni molto importanti sul tema dell'inquadramento contrattuale e normativo dei ciclofattorini. È una circolare che offre delle indicazioni in particolare sulle norme contenute proprio nel provvedimento 101 dello scorso anno, il decreto Rider, nella parte in cui questo provvedimento detta le regole da applicare ai fattorini che svolgono la prestazione con un contratto di lavoro autonomo. Per questi soggetti l'Ispettorato illustra quali sono gli indici da utilizzare per configurare un rapporto di lavoro autonomo ed esclude che il rapporto sia di tipo diverso, parasubordinato o dipendente. Vi segnalo anche che sulle pagine del Sole 24 Ore oggi c'è un lungo approfondimento proprio nelle pagine di Punto Lavoro dedicato allo smart working con molti approfondimenti, fra cui il pezzo della collega Cristina Casadei. Ci sono dei dati freschissimi su questo mondo, c'è l'osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano che fa un raffronto rispetto a quelli che sono oggi gli smart workers e quelli che erano un anno fa. Nel 2019 una fotografia scattava la presenza in Italia di 570.000 smart worker, durante il lockdown siamo arrivati ad oltre 6 milioni e mezzo, che sono diventati circa 5 milioni in settembre. L'osservatorio del Politecnico sostiene al termine dell'emergenza ci sarà un consolidamento e una crescita di questi numeri, lo prevede e lo dice, lo racconta il professor Mariano Corso, responsabile scientifico di questo osservatorio. Per le grandi imprese si stima circa 1.720.000 lavoratori, per le piccole e medie imprese 920.000, per le microimprese 1.230.000 lavoratori. L'ultima notizia, molto rapidamente, vi segnalo ancora un'altra iniziativa nell'ambito di un mese che prosegue dell'educazione finanziaria. È finito ottobre, ma ci sono ancora altre iniziative. C'è il webinar di oggi della Banca d'Italia per l'alfabetizzazione finanziaria degli studenti italiani, un webinar che appunto è previsto oggi dalle 17 alle 17.45 nell'ambito dell'iniziativa complessiva della Banca d'Italia, Tutti per Uno, Economia per tutti. Adesso rapidamente non lo so che cosa fare con la regia, se sentire il Dillo a due di denari, direi di sì. Sentiamo il nostro sportello reclami. Dillo a due di denari. Invece io sono al contrario che con il signore che ha detto che inutili le informazioni che date. A me è servito molto a sentirvi. Ho imparato tanto a sentire il vostro programma. Vi ringrazio molto. Buongiorno Deborah, sono Nicola, provincia di Vicenza, camionista. Il codice per la lotteria non si può scaricare. Io sono diventato pazzo, stare ore e ore su quel sito della lotteria, del codice, e non sono riuscito a scaricarlo. Sinceramente non trovi il link dove andare e scrivere il codice fiscale, sinceramente. E non era più semplice che quando fai un acquisto gli davi il codice fiscale e basta. O se no facevi un'app come tutte le app, ti la scaricavi, ti inserivi il codice fiscale e eri a posto. Però mi sembra una fregatura. Io sono diventato matto, veramente. Ciao. Guardi, gentile ascoltatore, a noi spiace questa sua disavventura, ma non può scaricare il codice per partecipare alla lotteria degli scontrini semplicemente perché il portale non è ancora attivo, si parte a metà gennaio e quindi lei non potrà mai scaricare niente se appunto il portale, quindi l'infrastruttura, non è ancora attiva. Guardi, già era pronta quella del Ministero dell'Ambiente ieri per fare la richiesta per il bonus mobilità ed è andato in tilt, essendo tutto predisposto. Se qualcosa non è predisposto difficilmente potrà accontentarla. Abbia pazienza ancora per qualche settimana e quando tutta l'infrastruttura partirà noi saremo qui pronti a raccontarvi come si fa. Il primo tema di oggi. Parliamo di lavoro. Allora, una notizia da approfondire molto rapidamente, ma con del contenuto molto significativo. Tonino Morina, commercialista, esperto fiscale per il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, il punto è il decreto ristori e i contributi a fondo perduto, appunto, che il decreto ristori, il decreto legge, quanto prevede, cioè il decreto legge 137 dello scorso 28 ottobre, appunto, spetta il contributo che spetta alle attività che rientrano in tutta quella gamma di restrizioni contemplate dal DPCM del 24 ottobre, quindi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetera. Perché questa mattina torniamo a parlarne? Perché noi abbiamo ben chiare, più o meno lo sanno tutti i titolari di attività attività economico-produttive a cui questo contributo spetta, conosciamo più o meno tutte le attività che saranno ristorate con questa nuova misura, ma la nuova misura contempla anche, Tonino, e qui chiedo a lei la specifica immediatamente, una ulteriore gamma anche di attività che non avevano ricevuto questo contributo nella prima fase emergenziale, cioè la scorsa primavera. E quindi, siccome molti ascoltatori ci hanno chiesto, per me che non ho ricevuto nulla tra aprile e maggio, ma so che adesso rientro, che cosa devo fare? Sappiamo che praticamente le istanze dovranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate. Allora, come fare a controllare se si è nella titolarità di fare questa richiesta e come si fa concretamente? Ma innanzitutto dobbiamo dire che la platea dei beneficiari riguarda anche le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, perché la precedente norma prevedeva questo limite fino a 5 milioni di euro, oltre 5 milioni erano fuori. Quindi chi viene inserito da questo articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137, che già abbiamo detto, ha necessità di presentare un'apposita istanza. L'apposita istanza che si presenterà sempre tramite la procedura web, come è stata fatta precedentemente, quindi per il primo bonus a fondo perduto, e con il modello che è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il 10 giugno 2020. Il contributo in ogni caso non spetterà ai contribuenti la cui partita IVA è cessata alla data di presentazione dell'istanza, perché purtroppo se hanno cessato l'attività non hanno diritto al contributo. Il problema tra primo e secondo contributo è che effettivamente la platea si è allargata e quindi addirittura hanno aumentato anche le percentuali, perché per chi ha fatto già la richiesta del primo contributo, l'ha ottenuto il primo contributo, non solo non deve fare nulla, ma hanno detto tutti, dal Ministro dell'Economia a tutti gli esperti del settore, che per chi ha avuto il primo contributo il nuovo bonus arriverà automaticamente sul conto corrente entro il 15 novembre senza fare nulla, tutto in modo automatico, se hanno ottenuto il contributo prima versione. In questo caso addirittura, come il Sole 24 Ore ieri ha fatto uno speciale sull'argomento, l'importo varia dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza in funzione del settore di attività, come previsto nel decreto legge, che c'è un allegato finale in cui tutte le attività più penalizzate da questo nuovo, diciamo, lockdown limitato, totale, paratotale, è un importo che può variare. Addirittura se hanno preso 4.000 possono prendere anche 16.000 euro, per dire, e con, senza fare nulla, se hanno ottenuto il bonus in prima istanza, il primo bonus del contributo a fondo perduto. Ci sono molto dei rapidamente problemi. Tonino, esatto, quindi, no, devo andare all'altro tema, siamo come al solito, viaggiamo sempre in ritardo. Per quello che riguarda la nuova gamma di titolari di questo diritto, cioè di ottenere questo ristoro, che cosa devono fare per capire se rientrano nella titolarità, individuare come, dove il codice Ateco fantomatico, appunto, che dà la possibilità di fare richiesta all'Agenzia delle Entrate dell'indennizzo a fondo perduto? Sì, per i nuovi soggetti che hanno diritto al nuovo bonus naturalmente devono fare le domande, peraltro con il provvedimento, come dice la norma stessa, l'articolo 1, saranno definiti i termini e le modalità per questa presentazione delle nuove istanze e quindi dobbiamo aspettare quali sono le regole che saranno fissate. Peraltro la stessa norma stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, MISE, di concerto con il MEF, il Ministro dell'Economia, potranno essere individuati altri contribuenti che possono essere ammessi, anche se in effetti il bonus ulteriore, che il limite di spesa ulteriore è di 50 milioni di euro, molto poco per quelle che potrebbero essere inserite in extremis, diciamo, ai tempi supplementari, come si usa in termini calcistico, per poter ottenere qualche piccolo bonus. Ma la cosa più Come requisito portante, Tonino, vale sempre la questione del calo del fatturato registrato fra l'aprile 2020 e aprile 2019? Condizio sine qua non, si sono inventati quella. Questo. maledetto il contributo a fondo perduto, lo dice il comma 3 della legge, della norma, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e degli incassi del mese di aprile sia inferiore ai 2/3 del fatturato dei corrispettivi del mese di aprile del 2019. Naturalmente questo requisito non conta per i contribuenti che hanno iniziato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019 e che, se hanno ottenuto il primo bonus, otterranno in modo automatico anche il secondo. Ci sono dei problemi per il primo contributo a fondo perduto, l'autotutela che è stata dimenticata da alcuni uffici. È una cosa che abbiamo segnalato ieri sul Sole 24 Ore, però diciamo aspettiamo notizie da parte del centro. Non so se abbiamo il tempo per segnalarlo questo aspetto, perché è importante, perché molti non ce la faccio stamattina, Tonino, ma prendiamo un appuntamento con lei naturalmente per i prossimissimi giorni. Tanto dovremo monitorare un po' l'andamento delle domande e l'arrivo di queste risorse, visto che il ministro Gualtieri ha promesso, e anche lo sviluppo economico, appunto Patuanelli, che entro il 15 o a partire dalla data dal 15 novembre questo denaro per i diretti interessati, per chi ha già avuto il primo contributo, saranno appunto sui conti correnti, e poi chiaramente ci sarà anche da seguire tutte le altre persone che fanno la domanda per la prima volta in questa fase. Quindi torneremo sicuramente a breve sull'argomento. Adesso è tardissimo, devo andare all'INAP. Parliamo di lavoro con INAP. Allora, per la verità è tardi, fra poco devo andare alla borsa, ma intanto posso subito salutare i nostri due interlocutori di questa mattina che ci racconteranno tutto l'impianto che INAP sta rendendo disponibile appunto per i giovani e le loro famiglie per ricercare lo stage all'estero che si intende fare, che si ha l'ambizione di fare, che si vorrebbe fare, chiaramente pandemia un po' permettendo, perché questa purtroppo è una condizione anche importante da valutare in questo periodo. Chiara Carlucci, ricercatrice INAP in ambito tecnologico, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno e grazie anche a Massimiliano Franceschetti, ricercatore INAP della struttura Sistemi e Servizi Formativi, benvenuti. Grazie e buongiorno a voi. Allora, vi rimando, se avete pazienza, alla seconda parte del programma. Racconto subito che cosa succede in borsa questa mattina, ma torniamo tra pochissimo. Complimenti a Deborah, perché c'è una voce meravigliosa. Di denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, come promesso, oggi parliamo di stage all'estero, chiaramente, quindi ci rivolgiamo in particolar modo alla platea dei giovani con questa iniziativa, con la nostra consueta puntata del mercoledì in collaborazione con l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. E oggi volevamo raccontarvi dell'attività di questa applicazione, del funzionamento di questa applicazione, un'idea che INAP ha avuto qualche tempo fa, in realtà molto tempo fa, perché, dottoressa Chiara Carlucci, prima era un manuale vero e proprio, quindi un bel tomone da sfogliare molto accuratamente per cercare l'occasione che facesse al caso proprio, individuare quindi un'occasione di stage all'estero utilizzando uno strumento, naturalmente, come tanti se ne potevano trovare magari fino a qualche tempo fa. Adesso ci siamo un po' digitalizzati tutti e chiaramente anche INAP ha colto l'occasione per rendere più fruibile questo strumento, mettendo a disposizione dei propri utenti un'applicazione che si chiama Stage 4 EU, e quindi Stage 4 EU, tanto per così almeno gli ascoltatori possono andarla anche a ricercare più facilmente. Come è nata questa idea, a che cosa serve, che cosa ricercano le persone che la utilizzano? Sì, l'idea, come accennava, è nata dall'evoluzione di un manuale cartaceo, quindi un prodotto che si potesse poi trasformare invece in un servizio offerto alla nostra platea di riferimento, quindi tutti quei giovani che volessero fare un'esperienza di stage all'estero. Quindi abbiamo scorporato il manuale, identificato quelli che potevano essere contenuti fruibili in maniera dinamica sia su un sito web che poi su un'applicazione mobile, e abbiamo creato questo servizio che individua gli stage attivi in Europa in un determinato settore professionale e che li presenta quindi a chi si scarica l'applicazione in un elenco strutturato estremamente fruibile. Siamo partiti appunto dal cartaceo al digitale. Ovviamente dietro c'è un lavoro molto accurato sia sulla selezione delle fonti che sulla articolazione di questi stage in diversi settori professionali, in modo che sia poi effettivamente utilizzabile come uno strumento per prendere e partire. Certo, tra l'altro introducendo all'inizio del programma la vostra presenza quest'oggi, io ho parlato di possibilità di fare stage in giro per il mondo. In realtà questa applicazione è destinata ai ragazzi che vogliono fare uno stage in Europa, e quindi questo è un aspetto appunto che volevo subito sottolineare. Che opportunità ci sono e soprattutto come raccogliete le disponibilità appunto di stage? Qual è la vostra, come dire, come si fa il match fra la nostra, come dire, idea di fare uno stage all'estero e le disponibilità che ci sono in Europa? Come avviene questo incontro? L'incontro avviene attraverso un lavoro che viene fatto da una redazione che ha una grande, diciamo, banca dati di circa 600 tra aziende e organizzazioni internazionali, e che vengono periodicamente cercate per evidenziare e per trovare se ci sono degli stage attivi, e facciamo per ogni offerta di stage una scheda che è molto interessante, perché anche se l'offerta di stage è in lingua straniera, ovviamente la scheda in italiano consente di evidenziare quali sono gli elementi anche comparabili tra i diversi stage, e quindi in questa scheda si evidenzia chi offre lo stage, in che settore, dove si svolge, per quanto tempo dura, entro quanto bisogna candidarsi, quali sono e quanti sono i posti disponibili, se ci sono questo tipo di indicazioni, e quali sono più che altro le attività specifiche che verranno richieste allo stagista, perché è molto importante. La redazione lavora molto su questo aspetto, nel senso che se ci sono delle offerte troppo generiche oppure con delle mansioni da svolgere non particolarmente qualificanti, le offerte non vengono selezionate ed inserite. E poi quali sono i requisiti che vengono richiesti appunto agli stagisti. E quindi ci sono tutti quanti i paesi, diciamo, europei e quei settori professionali che INAP studia da tempo, anche da un punto di vista di competenze specifiche e di formazione per poter poi proporsi nel mercato del lavoro in quei settori. Mm-hmm. È uno strumento. Come per esempio poi... quali sono quelli più gettonati che lei dice appunto INAP studia da un po' più tempo? I più gettonati in questo momento come offerte di stage attivo sono in genere il settore delle telecomunicazioni, il settore delle, diciamo, con tutte le applicazioni in campo della biologia, ad esempio, dell'industria. E da questo punto di vista anche, insomma, legate alle nuove tecnologie. I paesi più richiesti sono in genere la Spagna e la Germania, e appunto questo incrocio, insomma, consente anche per gli operatori dei settori di orientamento o di collocamento della formazione di capire quali sono appunto le professioni anche che vengono più cercate al momento. Può essere uno, certo, strumento for you da utilizzare a diversi livelli, per trovare uno stage e partire, ma anche per capire come orientare il proprio percorso professionale. Assolutamente. Allora, i numeri di Stage4EU sono molto positivi, non glieli faccio raccontare perché voglio tenere un po' di suspense su questo argomento. Volevo andare al dottor Massimo Franceschetti, un altro nostro ricercatore, e vorrei ci sottolineasse perché è importante fare uno stage all'estero. Può apparire anche, come dire, scontata la risposta, ma non diamola così tanto per scontata, soprattutto perché c'è chi è veramente a digiuno di informazioni su questo argomento, dottor Franceschetti, e magari paradossalmente c'è anche qualcuno che può avere la possibilità, la voglia, l'intenzione, l'aspirazione di farlo, ma non sa da dove cominciare. Quindi il vostro canale può essere anche utile come prima fonte di ricerca di informazioni, ma soprattutto perché è importante mettere nel curriculum un'esperienza all'estero con la modalità dello stage, Franceschetti? In effetti la domanda è interessante, perché non c'è nulla di scontato anche su questo tema. Dello strumento appunto stiamo parlando, i motivi per cui è importante, direi, possiamo sicuramente innanzitutto dire, ricordare una cosa, che lo stage o tirocinio, per dirla all'italiana, è ovviamente un momento di training on the job, quindi di apprendimento formativo in un contesto organizzato, in un'azienda, ma anche in una struttura pubblica. Questo che cosa significa fondamentalmente? Significa almeno due cose: che il ragazzo che vive questa esperienza, che può durare anche fino a 12 mesi, ha l'opportunità da un lato di apprendere sicuramente alcune conoscenze e competenze di tipo tecnico professionale. In seconda battuta, e non meno importante, è il fatto che i giovani possono in un ambiente organizzato anche apprendere quelle che sono oggi molto centrali nel dibattito anche, ovvero sia le famose competenze trasversali, queste soft skills, sì, che sempre di più non solo vengono ritenute importanti in ambiente organizzativo, ma diventano spesso anche un elemento nei momenti e nei processi selettivi per inserire le nuove figure professionali. Quindi direi che innanzitutto questo è il motivo più importante, quindi un'esperienza di 12 mesi che aiuta il ragazzo ad annusare in qualche modo, a prendere confidenza con il versante tecnico di un lavoro, di un mestiere, ma anche con tutto ciò che significa relazionalità, problem solving, creatività, senso critico, eccetera, eccetera. Inoltre, ovviamente, un po' la cosa un pochino più scontata potrebbe essere il fatto che un'esperienza all'estero, oltre ad arricchire ovviamente il curriculum, è determinante perché aiuta a perfezionare la conoscenza di una lingua. Ecco, sottolineo il verbo perfezionare perché è chiaro che uno dei requisiti che invece viene richiesto tendenzialmente appunto ai giovani che rispondono anche alle offerte che trovano sul nostro portale, sulla nostra app, è ovviamente già di partenza una buonissima conoscenza di una lingua straniera, che è ovviamente innanzitutto l'inglese, ma può essere anche il francese, il tedesco o lo spagnolo in misura. O lo spagnolo. Sì. Senta, dottor Franceschetti, prima dicevamo che chiaramente ipotizzando uno stage in Europa i ragazzi hanno generalmente in mente delle località molto precise e quasi esclusive, sono la Spagna, possono essere la Francia e la Germania, ci si candida molto meno per altre località, meno glamour forse, ma che comunque possono dare grandissime opportunità professionali in prospettiva. Voi indicate ad esempio il Lussemburgo, il Belgio, i Paesi Bassi, ma anche l'Europa dell'Est. Notate un interesse un pochino più crescente negli ultimi tempi per queste aree o rimaniamo sempre un pochino indietro come manifestazioni di curiosità verso queste economie? No, come dice lei assolutamente sì, cioè ci sono anche altri paesi, tra virgolette, minori, anche più piccoli geograficamente, come quelli che lei ha citato, che sono molto interessanti perché danno delle opportunità. Per esempio, ovviamente in Belgio, in Lussemburgo, in Belgio in particolare, ma in Lussemburgo e in Olanda ci sono anche molte sedi delle istituzioni europee e quindi questo è evidente che a maggior ragione costituisce appunto un elemento di interesse per i giovani. Anzi, colgo l'occasione proprio per ricordare per esempio che nei giorni scorsi è stata inserita una nuovissima offerta di stage molto interessante per il Parlamento europeo che partirà operativamente diciamo in primavera, però è possibile candidarsi fin da ora, quindi i ragazzi fino al 30 novembre prossimo possono inviare le candidature per questa importante esperienza al Parlamento europeo e quindi ovviamente parliamo di questi stati che lei sta dicendo, in più anche all'estero si muovono delle cose assolutamente. Benissimo, allora ci fermiamo perché c'è il traffico, siamo riusciti a tenere fuori fino a questo punto della nostra conversazione il problema dell'emergenza sanitaria che però immaginiamo stia cambiando un pochino in questo momento anche la condizione per spostarsi per fare uno stage in qualche paese europeo. Allora ne parliamo fra qualche istante, subito dopo i suggerimenti per chi è in questo momento in viaggio. E se il Vate Meazza si attarda serafico, con sommo rispetto, v'annuncio io il traffico. Due di denari. Eccoci ritrovati questa mattina, quest'oggi è mercoledì e anche oggi abbiamo la nostra puntata speciale sul lavoro con INAP e vi stiamo raccontando come funziona l'applicazione Stage4You, ma soprattutto come INAP sta seguendo questo mondo che naturalmente è molto interessante in termini di prospettive offerte ai ragazzi che si candidano per fare un'esperienza di tirocinio in un'azienda europea in questo caso, ma chiaramente la pandemia un po' le cose le ha cambiate e credo di aver capito, e quindi qui ritorno alla dottoressa Chiara Carlucci, che forse la panoramica delle offerte in questo frangente è... Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. I'm not going to give you a question. You are fake news. أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي. L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene. Ci sono. Eccoci ritrovati in diretta, scusateci ovviamente con le conduzioni pandemiche da remoto, ogni tanto qualche problema tecnico dobbiamo gestirlo. Allora ritorno ai nostri ricercatori di INAP per raccontarvi come funziona l'esperienza del tirocinio all'estero per i ragazzi che vogliono ovviamente candidarsi a qualche posizione tra le principali economie europee, chiaramente compatibilmente con le problematiche determinate dall'emergenza sanitaria. Allora inizio di nuovo con la dottoressa Carlucci. Sono cambiate le offerte in relazione proprio alle problematiche che si sono manifestate in questi mesi, o comunque hanno continuato ad essere presentate appunto con la, come dire, con un ciclo costante? Ma le offerte ci sono, le stiamo selezionando diciamo in base all'inizio, in linea di massima stiamo pubblicando quelle il cui inizio è previsto da febbraio in poi ragionevolmente, anche se alcune aziende si stanno adeguando da questo punto di vista e quindi possono anche partire con l'esperienza dello stage, diciamo, in remoto, magari no, per quelle fasi proprio di ingresso in ambito lavorativo che possono essere anche legittimamente svolte in remoto, per poi rifiutarsi magari dall'inizio dell'estate per un ingresso appunto in azienda o in ufficio che sia fattibile, come dire, di persona. Però al tempo stesso ne stanno anche un po' tutti quanti, diciamo, approfittando anche da un punto di vista così conoscitivo, perché è un'occasione questa forse anche per studiare meglio dove si voglia andare, in che settore ci si voglia sperimentare, anche perché certo, prepararsi per fare uno stage è impegnativo, nel senso che ci sono tante informazioni di corredo che vanno analizzate e queste sulla nostra piattaforma ci sono tutte. Noi abbiamo delle schede paese, per esempio, dove mettiamo il costo medio della vita, perché è un indicatore che fa sì che si possa scegliere con discernimento l'offerta di stage, perché se è vero che lo stage è retribuito, un conto è farlo in un paese appunto in cui il costo della vita è minore, un conto è affrontarlo in un paese dove il costo della vita è maggiore. La cosa interessante secondo me è che in ogni caso, attivando le notifiche dall'app, l'utente possa essere costantemente aggiornato su come si muovano le offerte in relazione al paese o all'area che gli interessa, e poi quando ci sarà l'opportunità di ripartire si ripartirà, però niente è fermo da questo punto di vista, anzi insomma, sia per i tipi di lavoro che vengono offerti sia appunto perché si può partire in modalità, diciamo, remota. Esattamente, infatti c'era questo aspetto che ho visto che nei nostri appunti era stato evidenziato da voi dal lancio dell'applicazione Stage for You. Dottoressa, quante visualizzazioni avete registrato, quante visite ci sono state al sito, insomma qual è il fermento che si è generato attorno a questa vostra attività? Diciamo che siamo partiti 2 anni fa, praticamente nell'estate del 2018, e è stato inizialmente difficile accreditarci da questo punto di vista in questo mercato delle app, perché la nostra tra l'altro è completamente gratuita ovviamente, quindi insomma era una cosa abbastanza nuova per un istituto di ricerca sperimentarsi in questo campo. Abbiamo avuto 18.000 app scaricate, 300.000 visite al sito, ma quello che ci gratifica di più è in questo caso il gradimento in presenza che abbiamo ogni volta che lo presentiamo in occasioni di eventi pubblici, perché sono gli stessi ragazzi che vengono insomma sia per fare domande specifiche, molto spesso ci danno anche degli input utili per continuare a lavorare su questo progetto in maniera diversa, e perché poi capiscono le potenzialità e quindi insomma abbiamo diverse insomma, occasioni di essere gratificati. Certo, allora dottor Franceschetti, vado verso la chiusura con lei, rimanendo sul tema dello stage all'estero nel periodo dell'emergenza sanitaria. Avete sottolineato come effettivamente molte opportunità si possano comunque se ne possa comunque approfittare attraverso gli stage da remoto. Allora ci racconta un po' come si stanno concretizzando anche queste esperienze, perché forse anche queste sono proprio quelle che mettono in evidenza le cosiddette soft skills di cui lei parlava prima, no? Le competenze trasversali, quindi anche un grado di flessibilità manifestata dai ragazzi che si rendono comunque disponibili a fare un tirocinio di questo tipo, anche se a malincuore lo devono fare magari dalla scrivania della camera da letto piuttosto che spostarsi in una bella capitale europea. È comunque anche questo forse un tema che potrebbe dar valore allo stage. Sì, diciamo che in questo caso la risposta non può che essere un po' un work in progress, cioè le modalità da remoto ovviamente sono una novità che tutti quanti abbiamo imparato a vivere anche nel nostro lavoro quotidiano a partire dalla scorsa primavera. Quindi evidentemente anche le opportunità di tirocinio, di stage che durante il primo lockdown sono state necessariamente sospese almeno per un paio di mesi, hanno poi ripreso a partire da maggio e anche più tardi con una modalità a metà strada, quindi una modalità in cui la presenza fisica sempre più ridotta poteva essere in qualche modo alternata con una modalità a distanza. Ovviamente nel caso di uno stage di tipo europeo è evidente che in questi mesi e quindi sempre di più i prossimi mesi ci diranno cosa fare. È evidente che comunque le nuove tecnologie aiutano perché un giovane, tra l'altro ovviamente con grandi abilità tecnologiche, si troverà sicuramente a proprio agio. Ecco, un consiglio che possiamo dare è che tutto sommato nello scegliere un'area professionale di riferimento, come diceva anche prima la collega Carlucci, all'interno dell'applicazione del sito, immaginando che qualcosa possa essere svolto a distanza nei prossimi mesi, converrà forse immaginare alcuni lavori che si possono fare a distanza, quindi uno stage in marketing ha un senso, uno stage per un laboratorio di biochimica ovviamente potrebbe avere meno opportunità di essere effettivamente usufruito in modo importante. Ne approfitterei per dare un ulteriore consiglio però ad integrazione di quanto detto. In 30 secondi che siamo in chiusura, la ringrazio, allora, molto volentieri. Le multinazionali offrono soprattutto stage di tipo curriculare, quindi quelli rivolti a chi è ancora iscritto all'università, mentre le organizzazioni internazionali in particolar modo offrono delle opportunità per chi ha conseguito un titolo di studio e quindi i neolaureati hanno molte opportunità presso le istituzioni, presso le organizzazioni internazionali, chi invece è ancora inserito in un percorso di studi potrebbe in modo interessante rivolgersi a candidature per esperienze in aziende multinazionali. Ecco, quindi non buttiamo la nostra richiesta nel vuoto, ma cerchiamo proprio l'opportunità che è assolutamente allineata anche ai requisiti che possiamo già proporre. L'applicazione si chiama Stage for You, andate sul sito di INAP, trovate tutte le informazioni. Grazie molto a Chiara Carlucci e Massimiliano Franceschetti. Noi con Due di Denari torniamo domani con Investire Informati. A tutti, buona giornata. Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.